Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Al giro di boa del primo quadrimestre, la riforma Gelmini presenta luci e ombre, ma soprattutto evidenzia la mancanza di disciplina diffusa tra gli studenti italiani. Alla fine del primo quadrimestre, la pagella di Gelmini Maria Stella, ministro dell'istruzione, è come quella del 72% degli studenti italiani. Qualche buon voto, tanti 6, ma anche un 5. Cominciamo dal voto più brutto. Da quando c'è lei, ci dicono i dati resi pubblici dal suo ministero, gli studenti italiani sono meno bravi, quasi 3 su 4, il 2% in più dell'anno prima. Sono i professori che sono diventati più severi o i ragazzi che studiano di meno? Le statistiche non ci permettono di rispondere, però ci danno una chiave per capire che l'aria è cambiata nelle aule scolastiche. Il voto in condotta. Ci sono 34.311 studenti che si sono ritrovati in pagella un bruttissimo 5 in condotta e che dunque sono ufficialmente candidati alla bocciatura. Attenzione, non parliamo di quel 7 in condotta che animò il dibattito estivo sul ritorno alla severità nelle scuole, un voto nel quale l'apparenza del numero nasconde la sostanza della punizione, ma di un 5. Una punizione bruciante che può essere data solo dopo episodi di inequivocabile indisciplina e una severa sospensione delle lezioni. Bisogna aver combinato qualcosa di grave per beccarsi un 5 in condotta. Ebbene, le cifre ci dicono che i professori hanno deciso di usarla, questa bacchetta. Non solo, ma ci consegnano anche una mappa dell'indisciplina, o del bullismo, se volete. Una mappa nella quale il Sud ha il doppio di 5 in condotta del Nord e addirittura il triplo di studenti che hanno un'insufficienza in una sola materia. La condotta, appunto. Questa pioggia di 5 è in realtà il voto migliore del ministro Gelmini, perché sembra dimostrare la bontà della sua idea, colpire l'indisciplina usando la pagella. Quell'arma minacciosa ripescata dallo scantinato del ministero, insomma, sembra funzionare. Dobbiamo pensare che sia stata usata per dare una lezione ai 14enni che aggrediscono il professore con le forbici, o ai 13enni che accoltellano il professore di musica, alle 15enni che danno fuoco con l'accendino ai capelli della prof, ai 13enni che mandano il vicepreside all'ospedale con la testa rotta. Non sono esempi astratti, purtroppo, ma esempi pescati a caso dalla cronaca recente. E vogliamo credere che grazie a quest'arma regolamentare, messa nelle mani di maestri e professoresse, non leggeremo più di docenti che si inventano punizioni estemporanee, come la maestra che stava per tagliare la lingua all'alunno, come quell'altra che imbavagliava con il nastro adesivo i bambini più chiassosi, o come quell'altra ancora che cominciò a prendere a schiaffi i suoi scolari. Ma dobbiamo andarci cauti, perché questa nuova era di severità gelminiana si accompagna al momento a risultati non brillantissimi sul rendimento dei ragazzi italiani. Invece di studiare di più, gli studenti studiano di meno. E che cosa studiano di meno? Le lingue, che quest'anno strappano il primato delle insufficienze alla scogliosa matematica. 2 studenti su 3 non raggiungono la sufficienza. Così, dopo aver fatto marcia indietro su internet, tagliando di un terzo le ore di tecnologia alle medie, il governo arretra anche sulla seconda delle celebri 3i berlusconiane, l'inglese. E la scuola del ministro Gelmini, che facendo la faccia arcigna alza la bandiera della modernità, poi se ne allontana sempre di più, in silenzio e senza schiamazzi, di quadrimestre in quadrimestre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sebastiano Messina, ma che serva solo ai bulli, da Repubblica del 2 marzo. Il provvedimento di legge recentemente emanato dal sottosegretario alla salute Francesca Martini in tema di cani e sicurezza elimina la lista delle razze pericolose. Ma sui cani un po' di razzismo ci vuole, afferma Massimo De Manzoni dalle pagine del giornale. Gentile sottosegretario Francesca Martini, quale felice possessore di un dolcissimo esemplare femmina di Golden Retriever, attendo con ansia di leggere la sua ordinanza sui cani che, da quanto è stato anticipato, minaccia di influire abbastanza profondamente sulle abitudini mie e della mia compagna di passeggiate. Capisco, gli ultimi episodi hanno creato grande allarme e poi, proprio perché, diciamo così, frequento l'ambiente, sono il primo a sapere che in giro ci sono bestie pericolose, a quattro e a due zampe. La mia, dunque, non vuole assolutamente essere una protesta. Comprerò il guinzaglio da 1,5 metri, quello che ho in dotazione eccede la misura di una ventina di centimetri, anche se fatico a comprendere la fondamentale differenza e mi pare che il severo diktat contrasti con la proclamata volontà di responsabilizzare il padrone. Ma tant'è, in tempi di crisi i consumi vanno stimolati. Perciò acquisterò pure la museruola da usare in caso di bisogno, anche se il comportamento più pericoloso del mio cane consiste nel suo continuo scodinzolare festoso, che certo potrebbe colpire qualche passante e più in generale stento a immaginare l'utilità in caso di bisogno. Che cosa significa? Che la museruola va messa quando l'animale aggredisce qualcuno? Mi sembra esercizio complicato e tardivo. Prima? Ma allora vuole dire sempre. Cosa che non mi pare, per fortuna, lei intenda proporre. L'impressione è che la museruola diventerà come quei giubbotti catarifrangenti di cui qualche anno fa hanno costretto tutti gli automobilisti a munirsi e che nessuno ha mai indossato, senza la minima conseguenza. Comunque, poco male, misura probabilmente superflua ma innocua, verserò l'obolo. Più complesso potrebbe essere capire quando il cane deve essere tenuto al guinzaglio. In città va da sé. Ma se, come ho letto, si utilizzerà l'ambigua formula «luoghi aperti al pubblico», i contenziosi potrebbero moltiplicarsi. Sulle colline intorno alla mia e sua città, gentile sottosegretario, la mia stella può trotterellare libera? E se no, questo semplicemente significa che abbiamo abolito, tanto per dire, la caccia con i cani? Basta saperlo, così come mi piacerebbe sapere la storia del patentino. Retroattivo? Se è per tutti, impossibile. Preventivo dunque, ma per chi? Solo per l'aspirante proprietario o anche per i parenti che all'occorrenza provvedono a far fare il giretto all'intorno all'isolato? E soprattutto, per tutte le razze di cani? Ecco, signora Martini, a me pare che il vero problema sia il bellissimo assunto che sta alla base di tutto il provvedimento. Non esistono razze di cani pericolose, esistono solo padroni non all'altezza. Ora, sarà anche vero che se allevato e guidato sempre, nel migliore dei modi possibili, nessun cane è pericoloso. Ma nella realtà non prendiamoci in giro. Poiché pochissimi di noi sono addestratori provetti, tra un Rottweiler e un Barboncino qualche apprezzabile differenza mi sembra si possa ancora cogliere. E non si tratta solo di stazza e di conseguenza di capacità di infliggere ferite. Anche se non sono affatto dettagli trascurabili. Sto parlando di aggressività, di carattere dominante piuttosto che sottomesso. Sto parlando di come sono stati selezionati cani destinati alla difesa o alla guardia rispetto a cani da caccia o da compagnia. Sto dicendo che, in questa materia, un po' di sano razzismo forse andrebbe preso in considerazione. Pensare di applicare le stesse misure di sicurezza a un pitbull e a un bassotto sconfina nell'utopia. A un mastino napoletano il metro e mezzo di guinzaglio gli fa un baffo se impugnarlo è un bipede che pesa la metà di lui. O il padrone è in grado di farsi obbedire, oppure è come dare un fucile a un bambino. In questo caso, se non vogliamo dar retta a chi dice che certe razze andrebbero semplicemente proibite, l'idea del patentino può funzionare. Solo chi passa l'esame può possedere un dogo argentino, anche se personalmente continuo a chiedermi chi glielo fa fare, gli altri si accontentino di un cocker. E allora, signora Martini, a nome di centinaia di migliaia di padroni di cani normali, spesso le prime vittime delle zanne di certi energumeni, le propongo un patto. Noi facciamo i bravi, cambiamo tutti il guinzaglio e compriamo tutti la museruola. Ma lei, per favore, ripensi all'idea di abolire la lista delle razze pericolose, quelle che, statistiche alla mano, sono responsabili praticamente di tutte le aggressioni mortali. Se restringe il campo, forse può obbligare a sostenere un esame anche coloro che già possiedono un'arma a quattro zampe e, se del caso, disarmarli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo De Manzoni «Non tutti i cani sono uguali, ci vuole un po' di razzismo» dal giornale del 3 marzo. I figli di Bill Gates non possono comprarsi l'iPod, ma non è una questione di soldi. I figli dell'uomo più ricco del mondo possono avere qualunque cosa dalla vita, tranne le due più diffuse fra i loro coetanei, l'iPod e l'iPhone. Glieli ha vietati papà con una motivazione inoppugnabile. Sono prodotti Apple. È stata la moglie di Bill Gates a rivelare l'umana debolezza del signor Microsoft, uno che ha passato l'esistenza a seppellire l'azienda rivale sotto i numeri del suo fatturato, ma non ha mai smesso di invidiarne la creatività. Il rancore di Gates è così profondo che non diminuisce neppure adesso che dall'alto del suo successo potrebbe permettersi di essere magnanimo. Neppure adesso che il signor Apple, Steve Jobs, è alle prese con una malattia grave. Forse i figli dell'uomo più ricco del mondo possono avere qualunque cosa dalla vita, tranne due, perché il loro padre ha avuto tutto dalla vita, tranne la scintilla artistica che invidia a Jobs. Ma sarebbe sbagliato ridurre la questione a una baruffa fra due fuoriclasse diversamente attrezzati. In realtà l'episodio ci colpisce perché ciascuno di noi, nel suo piccolo, ha un Gates o un Jobs con cui si confronta ogni giorno per rovinarsi meglio la vita. Alzi la mano chi nel suo ufficio non ha individuato un personaggio, uno solo, che per qualche ragione, spesso incomprensibile agli altri, egli considera il suo antagonista, soffrendo per i suoi successi anche quando non oscurano minimamente i propri. Una sfida che si trasforma in ossessione, quasi sempre all'insaputa del rivale, il quale starà pensando a tutt'altro, al nemico che si è scelto lui. Siamo una razza masochista, ammettiamolo, da Bill in giù. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Bill Apple, dalla stampa del 4 marzo. E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dalle pagine del Corriere della Sera, Farian Sabahi, docente della Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Torino, commenta la notizia del completamento della prima centrale nucleare iraniana. La notizia della centrale nucleare iraniana, completata dopo ben 34 anni, ha il sapore della sfida e dimostra il fallimento della politica del bastone e della carota dell'amministrazione di George W. Bush. Gli ingegneri iraniani russi hanno iniziato i test al reattore nucleare di Bushehr e ne avranno per altri 4-7 mesi. Ma oramai il dado è tratto e la Repubblica Islamica può vantare un impianto da 1000 megawatt per risollevare il morale di una popolazione segnata dal crollo del prezzo del barile e da una grave crisi economica. La costruzione della centrale era iniziata con la collaborazione di una società tedesca nel 1975, al tempo dell'ultimo scià della dinastia Pahlavi. Dopo la rivoluzione, il programma nucleare era stato sospeso e gli sforzi si erano concentrati sulla guerra contro l'Iraq, che nel settembre del 1980 aveva invaso l'Iran. La costruzione della centrale è ripresa solo in seguito e questa volta ad entrare in campo sono stati i russi. In gran segreto, per parecchi anni. E anche per questo il nucleare iraniano fa tanta paura, sebbene abbia dichiaratamente scopi soltanto civili, come impone il trattato di non proliferazione firmato da Muhammad Reza Pahlavi nel 1970. La centrale di Bushehr rappresenta un primo passo per un paese che ha un fabbisogno di elettricità pari a 40.000 megawatt e aspira quindi alla costruzione di 40 centrali come quella di Bushehr. e ha il sapore della sfida proprio perché non risolve i problemi dell'Iran e l'annuncio è stato dato in una congiuntura internazionale particolare. Il presidente statunitense Barack Obama ha aperto al dialogo diretto con la Repubblica Islamica e sebbene il segretario di Stato Hillary Clinton abbia espresso perplessità circa la reale volontà dell'Iran nel rispondere alle iniziative diplomatiche di Washington, la disponibilità di Obama e la recente impasse politica a Gerusalemme impediscono per il momento a Israele di bombardare la centrale di Bushehr come già era stato con l'impianto iracheno di Osirak nel 1981, quando il programma nucleare di Saddam Hussein era stato vanificato. E forse la notizia della centrale nucleare finalmente ultimata è arrivata sui media in questi giorni perché il momento è propizio per indurre l'Occidente ad accettare il fatto compiuto e a riconoscere la Repubblica Islamica come una grande potenza sullo scacchiere medio orientale. A giocare finalmente un ruolo sarà l'Italia, messa a margine negli anni passati, quando ad occuparsi delle trattative, peraltro senza grandi risultati, erano stati Parigi, Londra e Berlino. La visita a Teheran del ministro degli esteri Franco Frattini dimostrerà il ruolo che l'Italia è in grado di esercitare, ma testimonierà al tempo stesso la fragilità della politica. L'interscambio tra Roma e Teheran è pari a 6 miliardi di dollari l'anno, quota che colloca l'Italia al primo posto tra i suoi partner economici in Europa. E quindi ancora una volta, come recita un proverbio medio orientale, l'odore dei soldi farà deviare il corso dei fiumi. Sullo scacchiere si profila intanto un'altra mossa del leader supremo Ali Khamenei, che ha fatto avanzare un'importante pedina fino a poco tempo fa nelle retrovie. Il potente Rafsanjani è infatti insieme al presidente Ahmadinejad e al ministro degli esteri tra gli altri dirigenti inviati a Baghdad per i colloqui con il presidente iracheno Talabani. Ma anche per portare avanti i negoziati con Washington, di cui Rafsanjani ha chiesto il ritiro delle truppe il più presto possibile. A capo dell'Assemblea degli esperti e del Consiglio dell'Interesse Nazionale, Rafsanjani è troppo avanti con gli anni per candidarsi alle presidenziali del 12 giugno e in ogni caso, reduce da un paio di sconfitte elettorali, non può permettersi di essere ancora umiliato dalle urne. Ma ha tutti i requisiti per riprendere i fili del dialogo con Washington. Nel 1985 era stato coinvolto nello scandalo Iran-Contra, con cui gli Stati Uniti liberarono gli ostaggi in Libano, offrendo in segreto e con la mediazione di Israele armi all'Iran. Soprannominato lo squalo, e non solo per le guance glabre, Rafsanjani e la sua famiglia gestiscono un vero e proprio impero economico e proprio attraverso il business sono spesso in contatto con uomini d'affari e politici occidentali ricevuti ad Arg e Jadid, la moderna città in stile americano, costruita a 10 chilometri dall'antica cittadella di Bam, distrutta dal terremoto del 2003. Se l'Ayatollah Ali Khamenei ha deciso di mandare un personaggio di così alto rango in missione a Baghdad, è perché vuole trasmettere un messaggio. La politica estera è prerogativa del leader supremo e non del governo di Ahmadinejad. E non sarà quindi una questione di cui si discuterà in campagna elettorale, dove la priorità sembra piuttosto l'economia. E infatti, l'attenzione dei media iraniani è puntata sul nuovo piano economico, che prevede l'annullamento dei sussidi sui beni di consumo e la sostituzione con l'erogazione mensile di una cifra pari a 55 euro a persona. Un'immissione di contanti che farà schizzare l'inflazione alle stelle, provocando un ulteriore aumento dei prezzi. E difficilmente gli iraniani si consoleranno pensando alla centrale e al prestigio che dovrebbe conseguirne. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Farian Sabai, Se l'Iran si affida allo squalo, dal Corriere della Sera del 3 marzo. Per rifarsi dei mancati incassi dovuti all'abolizione dell'ICI, alcuni comuni si sono inventati nuove tasse, alcune delle quali superano in fantasia la famigerata tassa sulle banane. L'ICI per la prima casa è stata abolita, ma i comuni hanno sempre bisogno di soldi, per cui qualche politico ha proposto di istituire una tassa sui servizi comunali. Non si capisce a quali servizi ci si riferisce, forse all'illuminazione pubblica o all'acqua delle fontanelle, e non si capisce a che servono l'IRPEF, le addizionali IRPEF, le altre imposte e trasferimenti dello Stato, se poi i comuni fanno di nuovo pagare tutto. L'inventiva fiscale non ha limiti, come dimostrano gli esempi passati. Una volta c'era la tassa sulle banane. Erano considerate un bene di lusso, cosicché nel 1965 il governo le punì con un'imposta di consumo, che fu abolita nel 1991 dopo una dura condanna da parte della Corte di Giustizia europea. C'era anche una tassa sullo zucchero, molto più antica. Fu introdotta nel 1924, sempre perché era considerato un prodotto di lusso, infatti allora costava circa 5 euro attuali al chilo, e sempre in seguito a reprimende dell'UE fu abolita dal 1 gennaio 1992, insieme a quella sul caffè, che era ancora più antica, perché datava dal 1917. Quando i poveri consumatori italiani di allora scoprirono che si poteva fare il caffè anche con la cicoria, il governo intervenne di nuovo e nel 1924 tassò la cicoria. Poi, nel 1946, si accorse che agli italiani piaceva troppo la cioccolata e, per punizione, tassò il cacao. Nel 1975 toccò agli oli di semi e alla margarina, che cominciavano a fare troppa concorrenza all'olio d'oliva e al burro nostrani. Tutte tasse sparite da 20 anni, perché incompatibili con il nuovo mercato europeo. Da parte loro i cittadini non hanno mai capito bene perché uno Stato debba tassare normali prodotti di consumo, ossia se lo scopo è quello di colpire un bene di lusso, di punire, di scoraggiare l'acquisto di un prodotto per proteggerne un altro, o semplicemente di incrementare le entrate erariali. E non è solo un caso italiano. In Belgio, per esempio, sono tassati i rasoi a perdere, in Danimarca gli pneumatici e in Olanda addirittura il letame. Ma l'elenco delle tasse strane non si esaurisce qui, anzi ce ne sono state anche di stranissime, come la tassa sui balconi, introdotta con un regio decreto del 1931, perché i balconi insistevano sulle pubbliche vie. Fu abolita nel 1994. Lo stesso regio decreto prevedeva una tassa sui velocipedi e sui carretti a trazione animale, ma fu abolita con una legge del 1960. La tassa sulle paludi, invece, è tuttora una vera e propria persecuzione per milioni di cittadini e si paga ai consorzi di bonifica in base al valore catastale delle case che, pure queste, insistono nei territori bonificati oltre un secolo fa, quando c'era il Regno d'Italia. Quando poi ci sono imposte che possono essere ridotte per legge, non se ne parla. È il caso della TARSU, la tassa sui rifiuti, che può essere ridotta se fate il compostaggio domestico. Basta avere un giardino, un composter e fare la domanda di riduzione in comune. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Emanuele Piccari, Le tasse più strane del mondo, da Famiglia Cristiana numero 9 del 1 marzo.